io di notte solo ho negli occhi un velo, non so più dormire. Se ti avessi ancora, sai che cosa io farei? Un po' d'amore ti ruberei, ecco il mio cuore, un po' il tuo cuore coprirei e poi morirei. Che sia, se il sole trova la tua mano nella mia, ti ruberei l'ingenuità che quando dormi è sul tuo viso, è ancora là un tuo sorriso e ti resti come voglio e non come tu sei. Un po' d'amore dagli occhi tuoi, soltanto un po' di quel che ho dato ruberei. Amore amaro, che hai detto addio, amore dolce, amore grande, amore mio, ti ruberei l'ingenuità che quando dormi è sul tuo viso e ancora là un tuo sorriso e ti riprenderei, saresti come voglio e non come tu sei. Un po' d'amore ti ruberei, ecco il mio cuore, un po' il tuo cuore coprirei.